piccoli istanti. Lo so io, lo sai, la mia pelle lo sa. Troppo facile dire mi manchi. Ci sono momenti in cui io vorrei averti e tu ti perdi. Nella mia attesa interminabile notte, infinita, bellissima. Non si può sapere se poi arriverà il giorno mai, ma così eccitante viverla, stringerla fra le mani, sento le tue pulsazioni. Ci sono momenti in cui ti voglio, tipo adesso il mio possesso, ma per me è la solita solfa. Domani si esce, ma la vita non cambia. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, perse, sempre perse. Frammenti di memoria che mi passano per la mente. Ricordo di quando io ero bambino che giocavo, mentre ora me la bevo in vicinato con la gente mia. E la tristezza che mi assale, la mente mi confonde. Guardo lontano, non ci riesco, c'è qualcosa che mi blocca. Forse non c'è una giusta spiegazione. Squallido è tutto ciò che osservo dal passato al presente. Tutto è cambiato, tranne chi me lo assacricca, gente vera. Con i piedi salda terra, sempre fisso qui al nuoro. Non la rinnego, ma ci vivo. Vorrei svegliarmi una mattina a vedere che tutto è cambiato. Nulla è rimasto del mio passato di tristezza, ma è solo un sogno. Per ora vivo in un incubo, vorrei scappare, ma non ci riesco da questo labirinto di paranoia. La mia vita è buia. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, perse, per sempre, perse. Un'altra notte ancora un'alba, mentre ci si sveglia. Un altro ricordo che mi sfugge come il sole allontanato dalla pioggia. Scorre l'infa e melma, scorro nel sottosuolo. Aspetto il tempo per tornare a galla. Stringo il destino e tutto ciò che ho avuto in mano. Mi riprendo che il vento mi ha portato lontano. Ora che la musica sfuma, si dissolve in lontananza. Ho perso già in partenza, chiuso tra le quattro mura di una stanza. Guardando fuori per capire o per sperare di sognare. Troppo in basso per cadere o per sognare di sperare. Tengo in mente la mia vita, non dimentico la strada. Per mostrarti quanto è lunga la sera. Un'altra notte si fa buia sopra i miei monti. Un sorso per chi c'è ancora, un sorso per chi ne è già uscito fuori. Uno per la gente che ricorderò per sempre. Per un raggio di sole che spacca il buio dentro la mia mente. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre, quante guerre già perse in partenza. Le speranze sono perse per sempre.